ma comunque è uno sport che ha lunga vita. Lei vede qualcuno nel panorama di oggi? Beh, fare nomi, no, non ne ho di nomi sotto mano. Una volta c'era magari qualcuno, quando c'era, ecco, Tiberio Misri, Duilio Loi, Sandro Mazzinghi, e su questi emergeva tutto l'interesse della gente, perché erano conosciuti da tutti. Adesso tirar fuori un nome in assoluto diventa difficile. Ecco, mi dica la verità, ma qual è stato il più grande di tutti i tempi? Diciamo che Muhammad Ali, nel pugilato mondiale, senza dubbio, perché è quello che ha portato una linfa nuova nel pugilato, che non è soltanto quello di essere forti, avere le qualità di potenza, ma soprattutto di intelligenza. Lui ha dato una svolta al pugilato e lui è stato quello che, anche in un momento difficile, è riuscito a portarlo su, quello che occorrerebbe oggi per poter rivedere il pugilato a livelli superiori. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.